I numeri innanzitutto: 1700 i positivi, ma di questi 83 sono guariti, 34 i morti. Anche questa settimana inizia con Covid-19 a dominare una scena che non è più solo italiana, per quanto queste cifre mostrino che al momento il problema è fortemente concentrato dalle nostre parti. C'è il primo caso a New York, il Louvre che chiude, il migliaio di contagiati in Iran, gli oltre 100 in Germania, un pianeta che si prepara e si interroga sugli effetti anche economici del virus. Ma c'è anche altro. A Napoli il caso di un ragazzino di 16 anni che tenta di rapinare un carabiniere in Borghese, lui reagisce, lo uccide, gli amici arrivano e devastano il pronto soccorso. Al confine greco ci sono le migliaia di persone che vogliono entrare in Europa dopo l'apertura delle porte da parte di Erdogan, il ricatto di Erdogan. E a Lesbo ieri ci sono state ronde contro i migranti, giornalisti picchiati, un centro dell'UNHCR dato alle fiamme. E poi, per tornare a Covid-19, c'è tutto l'assurdo dibattito calcistico. E per l'assurdità basti l'esempio: Juventus-Inter rinviata, Juventus-Milan di Coppa Italia confermata a porte aperte. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci dunque in questo lunedì 2 marzo, le 6:31 minuti e 16 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, bentornati da me, da Carmelo Lauricella che regia, Giorgio De Luca che è in assistenza in redazione. Pronti a raccontarvi, a parlare con voi anche al 349-238-6666 con sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, questa settimana che si preannuncia una settimana intensa ovviamente. Siamo anche in diretta su Facebook. E se volete su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, ogni venerdì mettiamo un video, in realtà lo faccio in diretta, nella tarda mattinata di venerdì, mettiamo un video con un po' un riassunto della settimana precedente, ma non solo, anche un po' di analisi e di racconto. Questa settimana, se volete andarlo a vedere, parliamo soprattutto di quello che è stato un grande disastro di comunicazione, a quanto ci è apparso, della settimana scorsa, e non solo di quello, e tutti gli aspetti anche economici, no? di quello che può succedere. Dunque, come la copertina dell'Economist, che piacerà, non piacerà, però di fatto è un settimanale che finisce sulle scrivanie di tutte le elite mondiali. La copertina dell'Economist era un... avete presente la rappresentazione del coronavirus? Ormai la conoscete, quella specie di pallina con delle cose che escono fuori, con degli spunzoni che escono fuori. Ce ne erano 5 o 6 rappresentati come dei satelliti che ruotano intorno alla Terra e il titolo era "It's going global", sta diventando globale. E quindi il tema è questo, e per quanto molti di voi ci abbiano scritto nei giorni scorsi dicendo basta parlarne, signori miei, è un tema centrale per tutto il mondo, è un tema centrale per l'Italia, mette alla prova i nostri sistemi sanitari, anche appunto di paesi come il nostro, il cui sistema sanitario è invidiato nel mondo. Mette alla prova il pianeta, dal punto di vista economico ovviamente, dal punto di vista forse anche, speriamo che non sia così, della tenuta sociale. Impone dunque una serie di grandi riflessioni, alle quali adesso dal punto di vista economico stiamo rispondendo con cosa? Fateci fare più deficit, uno standard italiano. Del resto, dice il Presidente del Consiglio Conte, ci sarà un nuovo intervento economico. Per quanto riguarda poi le misure economiche, sapete che sono state annunciate, le abbiamo anche dichiarate, sono state adottate varie misure di primissimo impatto col decreto legge approvato ieri. Ho già detto che ci sarà un secondo provvedimento normativo per misure ancora più incisive che riguarderanno tutto il sistema produttivo, non solo delle regioni interessate ma anche le restanti. Ci sarà una grande spinta per gli investimenti, dice Conte. Con questo terzo e ultimo intervento su cui stiamo lavorando, vogliamo veramente creare una forte forte spinta semplificatrice, vogliamo creare una grande accelerazione della spesa per investimenti. E parla di un terzo intervento per il rilancio dell'economia. Ma vi vorrei ricordare anche che poi stiamo lavorando a un terzo intervento ancora più organico, ancora più complessivo, perché siamo consapevoli che l'Italia ha bisogno di una grande spinta per la crescita economica e quindi stiamo lavorando intensamente, perché questo è anche il momento di, ovviamente, di gestire questa emergenza sanitaria, ma nello stesso tempo anche di continuare la vita di tutti i giorni. La vita di tutti i giorni, è già, perché il problema è proprio là, è proprio là. Insomma, Covid-19 potrà spedire il mondo in recessione. Può darsi. Ma che effetti avrà su un paese la cui crescita economica si attesta sempre intorno allo zero virgola? Un paese con un debito pubblico al 130% del PIL. Un paese di bassa produttività, che fatica a portare a termine gli investimenti infrastrutturali. Il tema è questo per quanto ci riguarda, perché a prescindere da come reagirà il mondo, ed è presumibile che il mondo reagirà con una difficoltà economica, lo sappiamo perfettamente, ne abbiamo parlato, come reagirà l'Italia, che è già un'economia piuttosto debole? Come reagiranno le nostre istituzioni? Ieri il governo è stato costretto a dire ai sindaci: occhio, le vostre ordinanze non valgono niente se sono in contrasto con quello che ha sancito il governo. Una cosa che in un altro paese sarebbe perfettamente normale. Insomma, il governo stabilisce una cosa, c'è una legge nazionale, e non puoi uscire dai binari di questa legge, specie in una situazione di questo genere. Però in Italia, un po' la settimana scorsa l'ha messo alla prova, anche il nostro sistema di rapporti tra istituzioni nazionali e istituzioni locali è stato messo alla prova, e non mi pare che ne sia uscito benissimo, in tutta sincerità. E lo dico all'ascoltatore che già scrive: cosa c'è di tanto ridicolo nel fare deficit? Lei ha studiato economia, non è questo, è che la nostra risposta a tutto è: facciamo deficit. Ogni cosa, per ogni cosa, qualsiasi cosa accada, è: facciamo deficit. Poi però te lo ritrovi sulle spalle, fra 10 anni, questo deficit. Poi magari in questo caso è necessario, dico semplicemente che la risposta è sempre questa. Irene Pivetti, presidente dell'Associazione per l'Amicizia Italia-Cina, già presidente della Camera dei Deputati. Buongiorno. Irene, bentornata. Buongiorno, eccoci. Grazie. Francesco Specchi, editorialista di Libero, direttore di Pop Economy. Francesco, buongiorno anche a te. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, come entriamo in questa settimana, Irene? Come ti sembra? Ma io entrerei proprio dal punto di vista economico, visto che il coronavirus, diciamo, ha passato il primo impatto fortissimo, emotivo, eccetera, si sta rivelando dal punto di vista sanitario un'emergenza che può essere controllata. Lo potevamo sapere anche prima, sappiamo, siamo coscienti, lo ricordavi tu stesso poco fa, della qualità del nostro servizio sanitario nazionale, eccetera, eccetera. Quindi un po' di razionalità avremmo potuto mettercela da subito, ma diciamo che è comprensibile l'impatto emotivo e quindi il panico dei primissimi giorni. Adesso credo che questa prima ondata stia felicemente rientrando in un solco un po' più, appunto, di ragionevolezza diffusa, ma resta invece il grande interrogativo di questo virus, che è quello di tipo dell'impatto economico, anche perché l'economia in grandissima parte è psicologia, è determinata proprio dagli atteggiamenti, dalle aspettative, quindi dalla propensione agli investimenti piuttosto che alla fuga. E questo è sicuramente l'aspetto più fragile. Correttamente nella tua introduzione facevi notare gli indicatori, se non negativi, comunque stazionari, che in economia sono da considerare negativi, della nostra economia sempre. Allora, a me piacerebbe poter ripartire. È una cosa che una volta era una nostra qualità e oggi ce la siamo dimenticata, che è proprio la capacità produttiva. Noi eravamo un paese manifatturiero, eravamo un paese che faceva le cose. abbiamo smesso di farlo, ci siamo illusi di poter campare di terziario, di questo turismo non meglio definito, perché poi il turismo bisognerebbe ricordarsi che è un'industria pesante, nel senso che bisogna di infrastrutture per andarci nei posti, non basta avere delle cose belle da vedere, però irraggiungibili o scomodamente raggiungibili. E quindi riprendere quella parte più umile senz'altro, ma necessarissima per la crescita di qualsiasi paese del mondo, compreso il nostro, che è da una parte la manifattura e dall'altra le infrastrutture, in una parola reindustrializzare l'Italia. Se questo shock che nasce sanitario ma che in realtà è economico avesse come effetto quello di portarci una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'economia reale, dell'importanza di rimettere mano a fare le cose, non soltanto a transare entità virtuali, ecco, questo potrebbe essere addirittura un effetto positivo, anche perché, a dire la verità, al di fuori di questa ricetta, cioè un po' umile e cocciuta di riguardare la realtà in faccia, io non ne vedo altre davvero potenzialmente risolutive. Questo è aggravato dal fatto che noi siamo soltanto l'avamposto, ma se davvero questo virus diventa globale, vuol dire che tutto il modello sul quale è fondata la globalizzazione viene messo in discussione. Non lo so, su questo mi sento, non dico di dissentire, ma di sollevare qualche perplessità. Francesco, parliamone. Francesco, come la vedi? Sì. No, sono assolutamente d'accordo, cioè il problema è economico. Adesso c'è la stima possibile di un PIL che cala di 3 punti se continua così nelle prossime 4 settimane, quindi si va da una perdita secca che va dal 9 al 27 miliardi, quindi cioè la Lombardia soprattutto, che è stata da sempre ed è tuttora la Lombardia la locomotiva d'Italia, insomma, col Veneto producono, insomma, la sola esportazione era di 91 miliardi, quindi se comincia a bloccarsi, cosa che era già successa peraltro anche il mese scorso, perché quando l'Istat aveva accertato il calo di 2-3 punti, tutti avevamo detto porca miseria, cosa sta succedendo? Sta succedendo la ragione di Pivetti quando dice che stiamo diventando dei controterzisti della Germania, ci agganciamo alle altre economie, non tenendo conto che noi siamo comunque la seconda manifattura d'Italia. Quindi tutto questo sta portando veramente a una economia che arranca e che aggiunge all'emergenza sanitaria già abbastanza forte, che sta provando e stremando gli ospedali della Lombardia, perché noi ci abitiamo e lo sappiamo, sta portando proprio il dramma e lo spettro della recessione. Io non vorrei che tra 15 giorni, 20 giorni, le grandi aziende che comunque stanno reggendo, perché lavorano in smart working, perché hanno dei piani speciali di per affrontare il virus, a un certo punto dicono guardate, non ce la facciamo, cominciamo a licenziare. Si noti. Senza scendere nella complessità, però lo dico come chiosa a quello che diceva Irene Pivetti, si noti che lo smart working è consentito proprio dal fatto che c'è una virata sul terziario avanzato e non sulla manifattura. Il fatto che un pezzo del paese riesca a lavorare in questo momento dipende esattamente dal fatto che un pezzo del paese ha virato naturalmente sul terziario avanzato. Allora, vi voglio portare però, a me sembra la vicenda calcistica, no? Della quale tanto si è discusso in questi giorni. Secondo me non è importante in sé il quando si gioca, come si gioca, grande discussione, il campionato falsato. È interessante perché è la perfetta rappresentazione di come si sia al completo delirio in certi casi. Insomma, lo dicevo prima, ma vi pare normale che uno decide di non far giocare Juve-Inter nello stesso identico stadio? Dici, no, Juve-Inter non si può giocare, no? Con una squadra di Milano. E poi Coppa Italia, Juve-Milan con un'altra squadra di Milano invece si può giocare. Tutto così, no? Il ministro Spadafora va. Noi abbiamo detto solo due cose, per la salute di tutti, o giocate a porte chiuse o rinviate le partite. Ora, per me è ovvio che rinviare e poter giocare con tutti i tifosi, consentire questo grande spettacolo che è lo sport, che è il calcio, per tanti italiani sia la cosa migliore. Però è ovvio che prima di tutto viene sempre la salute. La salute prima di tutto, come dicevano le nonne, e come ribadisce il ministro Spadafora. Marotta dell'Inter che protesta sul caos del calendario, sentiamo, va. Ci si trova con società che da due domeniche non partecipano al campionato, vedi Sassuolo, vedi l'Inter, altre che hanno giocato con continuità. Il fatto di non trovare le date se non il 13 maggio per quelle gare che sono state rinviate, e quindi tutto questo porta al fatto che ritengo, e lo ripeto ancora, ritengo il campionato di Serie A che sia quantomeno sfalsato nel suo calendario, e quindi assume le dimensioni di uno squilibrio competitivo che era imprevedibile e imprevisto qualche giorno fa. Traffico va. Parliamo d'altro e andiamo a Napoli per questa storia terribile, dolorosa, di un ragazzino di 16 anni che tenta di rapinare una persona. Questa persona in abiti civili è con la sua fidanzata, ma è un carabiniere, il quale tira fuori la pistola, spara e lo uccide. Il ragazzo gli aveva puntato a sua volta una pistola, a quanto pare non era una pistola vera, però era una replica perfetta della stessa Beretta in dotazione ai militari, a quanto pare. Ovviamente le indagini sono in corso. Il padre di questo ragazzo, Ugo, dice: lui in realtà ha voluto ucciderlo. Guarda, fai una rapina, tu che sei carabiniere, puoi uccidere la gente, vuoi capire? Sì, mio figlio si faceva una rapina e si va ancora su tatti che tu le vai a uccidere pure. Allora tu stai difendendo, a uccidere, porta due vitami, si dice a Napoli. Però se figlio mi se ne sta facendo, fallo fuori. Se non lo fa fuori, a cascere dentro una coscia, non are da capo. Capito, cioè, per chi l'ha capito, per chi non è napoletano, dice: insomma, se volevi fermarlo potevi sparargli a una coscia, non gli dovevi sparare in testa. E poi il seguito di tutto questo, ossia gli amici di questo ragazzo, forse anche i parenti, che entrano nel pronto soccorso dell'ospedale dove il ragazzo è ricoverato, dove il ragazzo è stato portato, e devastano il pronto soccorso. Ciro Verdoliva, direttore della ASL 1 di Napoli. Pochi minuti per distruggere il pronto soccorso del presidio ospedaliero dei Pellegrini e qualche ora per rimetterlo in sesto. La distruzione ha riguardato apparecchiature elettrobiomedicali, arredi, lettini, computer, tutta la parte informatica, tutto l'impianto antincendio, vetri, porte. Noi siamo stati più forti e questo abbiamo voluto dimostrare, che poche persone, neanche poche, diverse decine, hanno distrutto quello che di più sacro c'è in una città, il pronto soccorso che appartiene alla rete dell'emergenza e che serve a dare la garanzia della salute ai cittadini che si trovano in difficoltà. Irene, io non so in quanti paesi del mondo succedano cose di questo genere. Forse in quelli dove nemmeno arriva l'informazione, nel senso che bisogna andare al di sotto della soglia della civiltà, io credo. Fermo restando che siamo di fronte ad una tragedia. Ovviamente. Perché comunque, ecco, ricordiamolo, perché comunque siano le circostanze, stiamo parlando di una giovane vita travolta, ma forse travolta anche prima, perché è chiaro che non si va a fare una rapina tanto per incominciare e poi dopo succedono tragedie per conseguenza. Ma questo assalto vandalico, ecco, io vorrei tanto sperare che li identificassero tutti queste svariate decine di persone, delle quali si porta come una specie di giustificazione il fatto che emotivamente coinvolti dal decesso del ragazzo, allora hanno sfogato la loro rabbia. Non è che hanno sfogato la loro rabbia, loro hanno ferito una città, hanno messo a rischio la vita di pazienti del tutto innocenti che erano in quel momento ricoverati, hanno privato una città di un presidio sanitario importantissimo nel momento in cui tra l'altro si vive in un'emergenza sanitaria globale, eccetera, eccetera. Cioè è un atto veramente grave, imperdonabile, non giustificabile. Non tirino fuori chiavi di lettura sociologiche, perché per piacere non siamo stupidi. Ecco, qui bisogna riportare un attimo le cose al loro giusto posto. Una cosa è la vicenda del carabiniere, che peraltro è un giovane fuori con la sua fidanzata che viene rapinato, perché partiamo da questa situazione, e poi c'è questa aggressione vandalica, che io davvero, fossi stato un medico di quel pronto soccorso sarei rimasto, credo, sotto shock, perché sì, credo che lo siano, tra l'altro, è una violenza, una cosa del genere, sì, è imperdonabile, inaccettabile. Mi auguro davvero che i singoli responsabili siano tutti identificati. Sì, ti aggiungo un altro elemento, che Francesco, questo è un fatto che abbiamo visto spesso nell'ultimo periodo, cioè le aggressioni nei pronto soccorso, insomma, sì. non è il primo caso a Napoli, casi anche di aggressioni alle ambulanze, non solo, insomma, è una questione sulla quale riflettere, insomma, a prescindere da questo caso specifico. No, nel caso specifico avete ragione voi, ci sono questi due piani, ma il piano fondamentale è quello della soffazione all'idea di, come dire, violare le istituzioni, no? Cioè c'è questa idea che esista un doppio stato, e che soprattutto in quelle zone lì, probabilmente fomentate da ormai un senso comune dovuto, forse, guarda, te lo sto dicendo in una maniera quasi banale, anche all'idea del fatto che ci siano insomma, Gomorra abbia quasi sublimato certi atteggiamenti. Non sto scherzando, i sociologi ci stanno facendo dei trattati su queste cose qui, e quindi l'idea di violare lo Stato, di essere comunque in parallelo, l'idea di che ci sia un'entità astratta che possa permettersi di violare le norme comuni, diventa sempre più abitudine, diventa sempre più vivere diffuso. Quindi questa è la cosa su cui dovremmo indagare, cioè il discorso del ragazzo che rapina 15 anni al centro, in quella zona di Napoli, avviene spessissimo, è sempre avvenuto, ma non è venuta questa reazione così forte da parte dei parenti, da parte delle persone. Cioè, mettere a ferro e fuoco un pronto soccorso è una cosa che non si è mai sentita. Tra l'altro, veramente il carabiniere si era qualificato, aveva sentito, sì, scarrellare la pistola, cioè c'era stata tutta una dinamica, non è che gli è girato e ha cominciato a sparare in testa. Quindi anche questa le versioni, devi sparare alla coscia perché sì, così si fa. Sì, sì, no, cioè, ma è dettare delle regole inesistenti. Assolutamente. Ma che vuol dire? Sta fuggendo, lascialo fuggire, diceva questo padre. Non scherziamo proprio. Ma gli ha puntato una pistola, ragazzi. Insomma, c'è legittima difesa, detto ciò, a tutti gli effetti. Sì, detto ciò, una situazione dolorosa. Brevemente voglio più che altro richiamare l'attenzione dei nostri ascoltatori. Mentre siamo qua, che ragioniamo di coronavirus, ragioniamo di quello che è successo a Napoli, insomma, succede anche questo a Lesbo. Ci sono i rifugiati che tornano ad arrivare, tornano a sbarcare, ci sono le violenze a Lesbo, ci sono delle ronde vere e proprie per non far sbarcare i migranti, delle ronde contro i giornalisti che sono stati picchiati, ad uno è stata lanciata la telecamera in acqua, ronde contro le ONG. È stato dato alle fiamme, non si sa ancora se sia doloso oppure no, però è probabile che lo sia, è stato dato alle fiamme un centro dell'UNHCR. Il tutto mentre ai confini tra Turchia e Grecia inizia la pressione dei profughi, che Erdogan ha deciso sostanzialmente di liberare, chiedendo sostanzialmente, mettendo nuovamente sotto ricatto l'Europa e dicendo: voglio altri 3 miliardi per tenere calma la situazione dei profughi. Il tutto, come sapete, poi è partito con un riesplodere delle tensioni tra soldati turchi e soldati siriani venerdì a Idlib. Altra notizia della notte, l'addio di Buttigieg alla corsa per la Casa Bianca. Sentiamo un passaggio. To help unify Americans, to defeat Donald Trump, and to win the era for our values. And so we must recognize that at this point in the race, the best way to keep faith with those goals and ideals is to step aside. Ed eccolo qua, step aside, quindi se ne va, lascia Buttigieg, in vista tra l'altro del super martedì. Martedì sera ci sarà, insomma, il momento importante delle primarie americane. E però fatemi chiudere con una nota di leggerezza, una nota, ma povero po. Not now, not anymore. Then now and what? Now. Oh, si sente poco, poco, ma povero Tsitsipas, il tennista, insomma, lo conoscete, che si ritrova in conferenza stampa alla madre, che è anche la sua allenatrice, ex numero 196 al mondo, è stata prima al mondo nel settore delle giovanili, il quale lui dice in conferenza stampa innocentemente, dice: sento un po' il fiato dei miei genitori sul collo. La madre entra in conferenza stampa stampa, perché è anche giornalista tra l'altro, e gli dice: ma tu sai quanta gente è allenata dai genitori? E lui risponde: tra i maschi pochi, tra le femmine tanti, tra i maschi pochi. Dice: e sai quanti hanno? Lui gli dice: guarda, nessuno di quelli allenati dai genitori ha mai vinto uno slam. E la madre replica: tu potresti essere il primo. Incidente chiuso, silenzio di Tsitsipas, azzittito dalla madre. Grazie Francesco Specchia, grazie Irene Pivetti, GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.